La parola di Dio dice che dove c'è lo Spirito di Dio, lì c'è libertà. Amen. Quanti percepiscono che lo Spirito di Dio è qui? Alleluia. Lo Spirito di Dio è qui e ti vuole incoraggiare e ti vuole dire: sei libero, fai di questa una tua confessione che dichiari davanti ad ogni ostacolo e davanti ad ogni bugia del nemico. Lo posso sentire da parte di tutti voi? Lo vogliamo di gridare insieme? Siamo liberi? Dillo, sono libero. Sono libero. Alleluia. Dillo alla persona che ti sta a fianco: lo sai che sono libero? E di ricordaglielo: sai che sei libero? Sai che sei libero? Sei libero in Cristo Gesù. Alleluia. Alleluia. Rimaniamo in piedi e rimaniamo in un'attitudine di preghiera. Io voglio invitare qui avanti Saverio e Stefania, e già nominandoli potete capire la motivazione della preghiera che stiamo per fare adesso, perché vi do qualche altro indizio: non c'è uno senza due. E poi anche è vero, Saverio, che non c'è due senza quattro. Profetico, proprio ad andare a moltiplicazione. La nostra chiesa cresce e cresce anche in questa maniera. Quindi hai un microfono, amore? No, è bello che preghi tu. Siete d'accordo con me? Quanti hanno apprezzato mia moglie che ha predicato? Quanti vorrebbero che fosse lei a predicare stasera e non io? Ehi, prendo nota, Feluccio! Dopo vi offro l'hot dog. Bene, vogliamo stendere le nostre braccia, vogliamo pregare per Stefania in modo particolare, ma anche per Saverio. Signore, noi ti vogliamo ringraziare per come tu fai ogni cosa nuova, per come Alleluia. Tu hai messo nel grembo di Stefania una nuova creatura. Noi sappiamo, Signore, come tu hai già un nome, hai già una chiamata, hai Amen. Già stabilito ogni cosa. Noi vogliamo Amen. Ringraziarti perché possiamo insieme affidarlo a te. Sì. Ti ringraziamo, Signore, per la loro famiglia, per Noa, per sì. come genitori loro danno tutto quello che è nelle loro forze per poter benedire la loro famiglia. E io ti ringrazio Amen. Per Saverio e per Stefania, per come insieme stanno conquistando nuovi territori per la tua presenza. Amen. Grazie Gesù per Stefania, vogliamo pregarti nello specifico per il suo fisico. Sì, sappiamo che è fortemente affannata e affaticata e attaccata sì. nel corpo. Noi preghiamo sì, Signore sì. libertà da ogni male. Guarisci. Come abbiamo confessato, Signore, che questi altri guarigione. Mesi che sono davanti a lei possano essere vissuti in una nuova leggerezza, Signore. Sì. Sappiamo che la gravidanza può portare fatica, ma noi preghiamo nel tuo sì. nome che lei possa essere alleggerita da Amen. Ogni forma di Amen. Pesantezza e sì, dolore Gesù. Alla schiena e fisico che lei ha in questo Amen. Tempo. Ti vogliamo ringraziare per le loro vite e le Amen. Affidiamo a te come genitori sì, nel tuo nome, Gesù. Amen. Amen. Padre, questo è un figlio, una figlia tua. E tu stai dando questo dono a Saverio e Stefania. E noi affidiamo questo grembo già da ora a te. La tua mano è su Stefania. La tua mano è su questa famiglia. E noi chiediamo il tuo intervento fino alla fine di questa gestazione e che ogni cosa possa andare per il meglio e che anche questo, come Noa, possa essere una testimonianza tua di come tu intervieni, di come tu hai cura, di come tu ami, di come tu proteggi, di come tu guarisci. Gloria a te, Gesù. Amen. Amen. Amen. Auguri, ragazzi. Bene, possiamo accomodarci. Ho lasciato sia l'acqua che l'iPad giù, quindi vogliamo ringraziare il gruppo Lode, che bravi che sono. Anche Ruben è bravo, vero? È bravo Ruben. Perché al contrario di Piero sta sempre lì al basso. Però Ruben le fa tutte, cioè avete notato, passa da un lato all'altro del palco e suona tutti gli strumenti. Poi ti vogliamo in prima fila qui a cantare, siete d'accordo con me? Qual è il libro che cominciamo a leggere insieme oggi? Chi è che ha cominciato a leggere Filippesi oggi? Oh, che bello, sono in buona compagnia. Quanti sanno come viene chiamata questa epistola? Ve lo ricordate? Qualcuno lo sa? È l'epistola della... Comincia con la G, la parola che sto per dire. Chi l'ha detto? Micaela, grazie. L'epistola della gioia. Noi ci stiamo per immetterci in un percorso di lettura che produrrà gioia nelle nostre vite, se permettiamo alla parola di Dio di avere efficacia nella nostra vita e di prenderla e di afferrarla così com'è. Quindi io voglio invitarti, a partire da oggi, se ancora non l'hai fatto, non solo a leggere il capitolo assegnato quotidianamente, quindi oggi leggiamo il primo capitolo, domani il secondo, dopodomani il terzo, e poi arriviamo al quarto, sono solo 4 capitoli. Però io vorrei invitare i più audaci in mezzo a noi di fare una cosa, leggere ogni giorno l'intera epistola, ok? Perché siamo oramai dei lettori ben collaudati, abbiamo letto insieme Deuteronomio recentemente, abbiamo fatto delle letture lunghe anche nei Salmi, capitoli molto lunghi abbiamo letto insieme, quindi io vi garantisco che la lettura dell'intera epistola la si può fare tranquillamente in 10 minuti, al massimo un quarto d'ora se vuoi leggerla lentamente. Quindi vorrei invitarvi a leggere l'intera epistola. Chi è che sinceramente, senza fare nessun tipo di forzatura, però chi è che sinceramente vuole impelagarsi in questo impegno? Bene, vedo qualcuno, bene. Noi oggi leggeremo una porzione di Filippesi, non leggerò l'intero capitolo, però più che altro vorrei cogliere con voi la tematica, la gioia, perché questa è l'epistola della gioia. Perché l'epistola della gioia? Perché l'apostolo Paolo parla continuamente della gioia, comanda la gioia, dice siate sempre gioiosi, rallegratevi sempre nel Signore, lo ripeto, rallegratevi. È ripetitivo l'apostolo Paolo, ma non solo, poi parla del fatto che è gioioso nelle sue preghiere rivolte ai filippesi, è gioioso della loro generosità. C'è gioia in ogni capitolo di questa epistola ed è bellissimo cogliere questa tematica, perché ascoltatemi bene, la gioia è una caratteristica di Dio. Il regno di Dio è un regno di gioia. E noi stasera abbiamo cantato insieme, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. E sapete qual è la volontà di Dio per le nostre vite, per le nostre famiglie, per la nostra Chiesa? La sua volontà, ed è meravigliosa questa cosa, la sua volontà per noi è che noi viviamo gioia. Dio vuole che tu abbia gioia nella tua vita quotidianamente. Anzi, aggiungerò, lui non solo vuole che tu abbia gioia, perché fonti di gioia ce ne possono essere tante, di svariato tipo, e tutti noi potremmo attingere da tempi di gioia. Io e mia moglie abbiamo goduto di un tempo di gioia proprio questa settimana. Ci hanno regalato un pacchetto ed era in un hotel a 5 stelle sul lago di Lugano. Quanti vorrebbero avere un regalo come noi, di 2 notti in un hotel a 5 stelle? Eravamo lì con un gruppo di pastori ed era bellissimo. La cosa che più è piaciuta a mia moglie erano, pensate un po', di tutte le cose: stanza vista lago, piscina, centro benessere gratuito, lago nel quale potevi usufruire di pedalò, tutti i comfort, cene, colazioni abbondanti. La cosa che è piaciuta a mia moglie erano le tapparelle automatiche che lei poteva comandare dal suo comodino. quando ha scoperto questa cosa, non ha smesso di alzare e abbassare queste tapparelle che si alzavano e si abbassavano. E io immaginavo le persone che passavano, no, da questo hotel a 5 stelle, e tutti si immaginano che in un hotel a 5 stelle ci sono persone sofisticate, non era il caso nostro, c'era lì mia moglie che alzava e abbassava le tapparelle. Ecco, questo può essere motivo di gioia. Una vacanza può essere motivo di gioia. Andare al mare. Quanti sono andati al mare oggi? Vogliamo fare un applauso a tutte le persone che sono andate al mare oggi e che sono qui questa sera. Io ci terrei a questo applauso. Fatelo in maniera sentita. Perché dimostrano che la domenica si può andare al mare e venire anche in chiesa, ok? Grazie ragazzi per aver fatto questo. Però ecco, quello che voglio che noi afferriamo è che Dio vuole darci una gioia ad un livello superiore. Una gioia che non è circostanziale, ovvero non è una gioia che dipende dalle circostanze. Una gioia che non dipende dall'hotel a 5 stelle con tapparelle automatiche comandate dal comodino. Una gioia che è costante ed è sempre una fonte disponibile in ogni stagione e in ogni circostanza. Infatti l'autore dell'Epistola dei Filippesi, che è l'Apostolo Paolo, scrive questa lettera e parla della gioia in una condizione che tutto ci parla e tutto ci dice, forché che se la stava passando liscia. Non era in un hotel a 5 stelle, era in un carcere romano. Un carcere dell'epoca che era del disagio più assoluto, e lui parla di gioia e non solo invita i filippesi ad avere gioia, ma lui dimostra e manifesta che lui stesso in quella circostanza sta avendo gioia. Dio vuole darti gioia in ogni stagione, Dio vuole darti gioia in ogni circostanza, Dio vuole darti gioia anche quando ti senti nella prigione più buia, Dio vuole darti una gioia che non dipende dalle circostanze, ma che dipende da lui stesso, dal suo regno, perché lui ha autorità di darti gioia. Amen? Vuoi gioia questa sera? Chiunque vuole gioia questa sera, posso chiedere di alzarti in piedi? Spero che non ci sia qualcuno che rimane seduto e che dice no. Io vorrei tanto una vita depressa. Io vorrei essere triste, vorrei soffrire. No, noi tutti vogliamo gioia. Vogliamo pregare per gioia nella nostra vita, perché Dio ce la dà. E io non so come sei venuto, ripeto, forse sei appesantito dalla vita, ma Dio è qui per dirti, figlio mio, figlia mia, io voglio gioia per te. Amen. Padre, grazie, perché sei così buono. Padre, è meraviglioso scoprire, riscoprire che non sei un Dio sofferente ancora appeso ad una croce, ma sei il Dio della resurrezione e della vittoria, e tu trionfi sulla morte e tu trionfi su ogni cosa negativa e dai a noi la possibilità di vivere gioia in ogni circostanza. Io prego gioia nella nostra chiesa, io prego gioia in tutte le famiglie, io prego gioia nei matrimoni, io prego gioia nei ragazzi, nelle ragazze, io prego gioia per chi vive depressione in questo periodo, in questa stagione, io prego gioia per chi mi sta ascoltando in questo momento da casa e magari non ha il coraggio e la forza di uscire di casa perché vive paure, ansie e vive tristezza profonda. Noi nel nome di Cristo Gesù comandiamo la tua gioia in ogni cuore, di ogni vita che si arrende a te in questo momento. Nel nome di Gesù. Amen. Amen. Possiamo accomodarci. Vedete, l'Apostolo Paolo gioisce nelle catene. E io vorrei che noi scoprissimo insieme qualcosa che io ho scoperto proprio in questi giorni, e cioè che la gioia dipende anche da come noi gestiamo le offese. L'Apostolo Paolo ci parla del fatto che lui è stato profondamente offeso, e nel suo gestire questa profonda offesa, lui ottiene gioia. Questa è un'epistola che ci dice che la gioia la possiamo ottenere attraverso la preghiera, la possiamo ottenere attraverso il ringraziamento, la possiamo ottenere attraverso buone relazioni con cristiani maturi, sani, generosi, attorno a noi. Ma l'Apostolo Paolo ci dice anche che ci sono dei mezzi per ottenere gioia che hanno a che fare con il nostro affrontare le circostanze, quali anche le offese che gli altri ci procurano. Vogliamo leggerlo insieme. Filippesi 1, dal versetto 12, leggiamo questo dell'Apostolo Paolo. Desidero che voi sappiate, fratelli, che quanto mi è accaduto, il fatto che è in prigione, ha piuttosto contribuito al progresso del Vangelo, al punto che a tutti quelli del pretorio e a tutti gli altri è divenuto noto che sono in catene per Cristo. E la maggioranza dei fratelli nel Signore, incoraggiati dalle mie catene, hanno avuto più ardire nell'annunciare senza paura la parola di Dio. Vero è che alcuni predicano Cristo anche per invidia e per rivalità, ma ce ne sono anche altri che lo predicano di buon animo. Questi lo fanno per amore, sapendo che sono incaricato della difesa del Vangelo, ma quelli annunciano Cristo con spirito di rivalità, non sinceramente, pensando di provocarmi in qualche afflizione nelle mie catene. L'Apostolo Paolo dice: io sono già in catena, ma le catene non sono motivo per me di disperazione, anzi gioisco perché a motivo delle mie catene altri vengono a conoscenza dell'Evangelo. E poi cita queste persone che per invidia e per rivalità vogliono far del male, un torto all'Apostolo Paolo. E questo è vero, ministerialmente è possibile, nulla è cambiato, ancora oggi c'è chi predica l'Evangelo, c'è chi si prodiga magari nell'aprire una nuova chiesa o nell'essere pastore per rivalità, per invidia, per dimostrare che può fare meglio, escredita altri ministri, parla male di altri cristiani. E tutto questo perché c'è uno spirito di invidia, di rivalità, il desiderio di far del male pur facendo qualcosa di estremamente nobile, quale la predicazione dell'Evangelo. Le cose non sono cambiate e chiunque nel ministero lo sa. Quando sei nel ministero sei bersagliato e a volte ingiustamente accusato e alle spalle ti vengono dette cose che non è giusto che ti vengano dette. E l'Apostolo Paolo si trova in questa situazione e quello che ci dimostra è che lui riesce a gioire anche nonostante le offese che lui subisce. Infatti, versetto 18, e io spero che possiamo memorizzare questa domanda, dice: che importa? Che importa? Ripetilo con me. Che importa? Che importa? Posso tradurlo con i termini nostri? Secondo te, qual è il suggerimento che mi date? Chi se ne frega? Qualcuno proprio in dialetto. Chi se ne frega? Che importa? Vedete l'Apostolo Paolo quanto è libero. Che importa? Rivalità, contese, invidie, qualcuno che avrà parlato male di lui, vieni nella mia chiesa piuttosto che quella dell'Apostolo Paolo. L'Apostolo Paolo, che importa? Che importa? Che importa? Comunque sia, con ipocrisia o con sincerità, Cristo è annunciato. Di questo mi rallegro e mi rallegrerò ancora. E mi rallegrerò ancora. L'Apostolo Paolo sta dicendo: io mi rallegro e nonostante queste offese decido di continuarmi a rallegrare. Nonostante le offese, io decido di continuare a vivere una vita nella gioia, perché la gioia mi appartiene e non permetto a nessuno di rubarmi la gioia che ho in Cristo Gesù. Posso invitarti questa sera? Non farti rubare la gioia che hai in Cristo Gesù, ti appartiene, lui l'ha vinta con il suo sacrificio su quella croce. Non permettere a nessuno di rubarti la gioia. E come si fa? Gestendo bene le offese, imparando a gestire le offese. Se è vero nella Chiesa che ci sono invidie, rivalità, competizione, che c'è chi ci fa un torto, chi ci parla male, è ancora più vero nella società che viviamo, al lavoro o a scuola, o addirittura anche in famiglia, nel condominio. Io e mia moglie ci stiamo per trasferire in un condominio, no? Stiamo già pregando, no? Per quel tempo, per le riunioni condominiali, perché ci hanno anticipato su un momento catartico della vita di una coppia, le riunioni condominiali. Quanti sono usciti un po' ammaccati da qualche riunione condominiale? Poi possiamo ministrare, pregare per voi a fine di questo incontro. Però ecco, vedete, il Signore vuole che noi facciamo nostra la gioia e non la facciamo solo alzandoci in piedi e facendo una preghiera, ma gestendo bene le offese che gli altri producono nella nostra vita. E la verità è questa, ascoltatemi molto bene, tu non puoi impedire di essere offeso. Prima o poi verrai offeso da qualcuno o da qualcosa. Quanti sono d'accordo? Quanti hanno già subito una? I più piccoli forse non ancora, però io posso assicurarvi che basta che vivi sufficienti anni per accumulare non una, ma più offese. E tu puoi decidere se fare di queste offese una possibilità che offri al diavolo di derubarti della gioia, o una possibilità che offri a Dio per farti più simile a Cristo e all'Apostolo Paolo e andare oltre e camminare libero. Quanti vogliono piuttosto questa seconda opzione? Spero tutti. Ricordo che qualche anno fa, eravamo proprio qualche sera fa, stavamo ricordando questo episodio che come chiesa abbiamo fatto, non come chiesa, come gruppo dei ragazzi, un piccolo gruppo dei ragazzi. Abbiamo fatto un viaggio in Germania e abbiamo viaggiato con questo furgone, eravamo 9 ragazzi, tutti caratteri molto diversi. Ed era il secondo tentativo di viaggio, perché il primo c'era riuscito bene, ci siamo divertiti, è stato piacevole. Quindi abbiamo rifatto l'esperienza. Questa esperienza, a cena, ricordavamo che non è stata così piacevole come la prima, e a un certo punto c'era amarezza che si accumulava al punto tale che è nato un brindisi fra di noi, e quindi a pranzo, a cena, quando ci versavamo l'acqua o il vino che fosse, per gioco, in virtù dei discorsi che si intavolavano, brindavamo a cosa eravamo rimasti male. E quindi c'era questo brindisi, alzavamo i calici e uno di noi diceva: ci sono rimasto male per Mirko, che ha guidato malissimo e che non ha fatto altro che tenere le sue cuffie e vivere isolato dal resto del gruppo. E poi si alzava qualcun altro e diceva: io ci sono rimasto male per qualcuno che aveva le scarpe puzzolenti e non le ha messe fuori dal furgone, ma le ha tenute dentro tutta la notte. Noi abbiamo dormito in quel furgone e non si respirava. Io ci sono rimasto male per... Ed è simpatico oggi, ma all'epoca c'era un po' di amarezza nel dire tutte queste cose. E questo non è un suggerimento, quello che vi sto dando, ok? Quindi domani a pranzo non alzate il calice per dire: ci sono rimasto male per... Non sfogate le vostre amarezze, perché non si risolvono in questa maniera. Però ecco, io non so voi, ma io sono offendibile. E in questi giorni, mentre eravamo in Svizzera, a un certo punto, in un insegnamento che il pastore stava dando a noi altri, ha detto questa frase: se ti offendi facilmente, non sei adatto al ministero. E quando l'ha detto, mi ha colpito nel cuore. Perché è come se il Signore volesse parlare a me personalmente e dirmi: Mirko, devi crescere ancora. Se ti offendi facilmente, non sei adatto al ministero. E lui ha voluto essere così spietato, questo pastore, per farci comprendere quanto l'offesa può essere uno strumento nelle mani del diavolo per distruggere la nostra chiamata. E sai che Dio ha una chiamata per la tua vita. Lui ha uno scopo per la tua vita. E sai anche che c'è un nemico che vuole fermarti da questa chiamata e da svolgere la missione che Dio ha per te. E sai come lo farà? Lo farà attraverso le offese che subirai. Se non le gestisci bene, queste non solo ruberanno via la gioia dalla tua vita, ma saboteranno anche il percorso di vita che Dio ha stabilito per te. Non permettere al diavolo di rubarti la gioia. Non permettere al diavolo di usare lo strumento delle offese. Non essere facilmente offendibile. Essere offesi, l'ho già detto, è inevitabile, ma accogliere il risentimento che deriva da un'offesa è una tua scelta, è una mia scelta. Tutti noi subiremo delle offese, ma se le accogliamo, se continuiamo a sentirci risentiti e poi sfoghiamo questa amarezza, beh, questa è solo una nostra scelta. E questa scelta, per chi la sta vivendo, sa che non produce gioia, che non produce un piacere di vivere. Distrugge matrimoni, distrugge contesti sociali, distrugge anche la Chiesa, ci separa, ci divide. Per questo dobbiamo imparare a lasciar via ogni amarezza, ogni cruccio, ogni risentimento. Sai che stai vivendo risentimento se facilmente ti offendi, a qualsiasi occasione, per qualsiasi parola, per qualsiasi episodio che non ti va giù, hai risentimento, hai un'offesa, ti senti offeso. Sai che il maligno ha avuto la meglio su di te? Se hai delle reazioni impulsive, violente. Come si dice nel gergo, si dice quando hai i nervi scoperti, perché basta che qualcuno ti sfiora e quel nervo ti porta ad irrigidirti. Capite perché ci ruba la gioia? Quando hai i nervi scoperti non puoi vivere la gioia perché non sei rilassato. C'è amarezza, c'è risentimento e Dio vuole renderti libero e Dio vuole renderti gioioso nel ministero, nella famiglia, nel lavoro, nel contesto sociale, nelle riunioni condominiali. Dio vuole che tu abbia gioia, gioia piena. Allora, impariamo dall'Apostolo Paolo. Che cosa ha da insegnarci? Numero uno, scegli di sbarazzarti presto di ogni risentimento. Scegli di farlo subito. È sempre l'Apostolo Paolo, che sembra essere esperto in materia, che dice in Efesini 4, adiratevi e non peccate, il sole non tramonti sopra la vostra ira. Ascoltate cosa aggiunge dopo, e non fate posto al diavolo. Perché vedete, un'ira che non è risolta, che non è lasciata, di cui non ti liberi e che continua a essere lì presente quando ti svegli la mattina e poi il sole tramonta, è un nuovo giorno e si ripresenta e così per una serie di giorni, se non settimane, mesi e anni, questo è posto lasciato al diavolo. E il diavolo vuole distruggere la tua vita, vuole toglierti la gioia e vuole sabotare il percorso di vita che Dio ha per te. Non fare posto al diavolo. Quando non lasci andare il risentimento, quando non lasci andare l'offesa, stai dicendo al diavolo, vieni a casa mia, vieni ad abitare con me. Stai dicendo ai demoni, venite, siete accolti nel mio cuore. Venite, potete prendere pieno dominio dei miei pensieri e dei miei ragionamenti e di come affronterò la giornata. E per quanti vivono risentimento, lo sapete quanto questo produce cose che sono diaboliche e distruttive, perché ovunque sei, in qualsiasi comitiva tu sia, in qualsiasi contesto sociale, hai sempre da scattare, hai sempre da reagire e ti senti facilmente offeso. Dio ti vuole liberare, quindi non permettere che questa sera il sole tramonti sul tuo cruccio. Chi devi perdonare? Quale risentimento devi lasciare andare? Fallo stasera, fallo ora mentre sto predicando, perché Dio è qui per darti vittoria, per darti una vita gioiosa. Qualsiasi cosa Dio ci chiede di fare è sempre per il nostro meglio, anche quando si tratta di cose molto scomode, lo sappiamo, vero? A volte sono le cose più scomode che Dio ci chiede di fare che portano maggiore benedizione nella nostra vita. Quindi non tirarti indietro da questa scomodità, perché c'è tanta scomodità nel lasciare andare via offese, che invece istintivamente ti fanno alzare il pugno e te lo fanno sbattere sulla scrivania o sul tavolo. Non sentirti superiore. Ci provochiamo offese a vicenda. Siamo tutti peccatori. Abbassa le tue aspettative. Abbassa le tue aspettative sul prossimo. Abbassa le tue aspettative sui credenti, sui fratelli, sulle sorelle. E non lo voglio dire perché non dobbiamo credere nel meglio dell'altro, ma abbassare le nostre aspettative significa riconoscere che siamo tutti peccatori e siamo tutti molto bassi. E tutti, a tutti capita di dire la cosa sbagliata e di offenderci. Abbassa la tua aspettativa. E quando questo capita e qualcuno sbaglia, ricorda i tuoi errori. Gesù ti dice, ti insegna, mi insegna, non guardare la pagliuzza che è nell'occhio dell'altro, guarda la tua trave, quindi concentrati sui tuoi errori, ricorda i tuoi errori e ricorda che come sei tu sbagliato e peccatore, salvato per grazia in un percorso di miglioramento in Cristo, così lo è il tuo fratello, la tua sorella, tuo marito, tua moglie, i tuoi figli, i tuoi genitori, i tuoi suoceri, i tuoi vicini, i tuoi colleghi di lavoro, il tuo pastore. Quando quel pastore in questi giorni ha parlato dell'importanza di non essere offesi, in questa semplice frase che vi ho detto, da lì è nato tutto un meccanismo e tutto un pensiero nella mia mente. Sono andato indietro nel passato e ho ricordato quello che i miei genitori mi ricordano simpaticamente e che io ero da piccolo fortemente suscettibile. E quando pregavo io, prima che si mangiasse, tutti dovevano avere gli occhi chiusi, nessuno doveva fiatare, dovevano tenere strette le mani e dovevano essere concentrati perché in quel momento io stavo per fare la preghiera più importante della storia dell'umanità. Ed era così importante che io stringevo le mani, alzavo la voce, chiudevo un solo occhio e osservavo tutti, prima che mangiassimo. E se qualcuno si azzardava a dire qualcosa durante la mia preghiera, io bloccavo la preghiera, mi arrabbiavo, strillavo, urlavo e i miei genitori dovevano riappacificarmi e riportarmi in una condizione di equilibrio. Quel piccolo Mirko è cresciuto e ora è un grande Mirko, sempre suscettibile, sempre offendibile, se non fosse per Cristo Gesù. E io voglio imparare da Cristo e io voglio dipendere dalla sua parola e voglio lasciare andare via le offese perché voglio vivere una vita gioiosa. Amen. Amen. Primo punto, scegli di sbarazzarti presto di ogni risentimento. Punto 2, non cercare di controllare. Nella tua vita e nella mia vita i nostri sentimenti verranno violati, verranno feriti. Non una volta, ma molte volte. E se il tuo obiettivo di vita diventa quello di fare giustizia e cambiare tutti gli altri e rimanere con un occhio chiuso ad osservare quello che gli altri fanno o non fanno per correggerli, perché devono essere diversi da come sono e quindi metterti in una condizione di controllo, beh, questa condizione di controllo ruberà pace e gioia dalla tua vita. Non cercare di controllare, cerca di influenzare, è molto diverso. Quando vuoi controllare l'altro, vuoi che sia diverso da quello che è. Quando lo vuoi influenzare, cerchi di cambiare te stesso per essere un buon esempio. E anche come genitori, anche nell'educazione con i nostri figli, vale la stessa cosa. Non puoi controllare tuo figlio, non lo puoi cambiare. Non puoi fare in modo che sia totalmente diverso da quello che è, lo puoi influenzare. E questo cambia tantissimo, perché dai l'esempio e ti metti in gioco. Perché tuo figlio probabilmente assomiglia a qualcuno. E se ha il DNA che ha, forse quel DNA viene da qualcuno, no? Avendo Cristo ed essendo cresciuto, tu questa sera stai crescendo, afferrando queste verità, fai in modo che cambiano il tuo cuore, cambiano la tua attitudine e sarai un migliore educatore e sarai un migliore discepolatore di altri e potrai curare pastoralmente altri, avere un'influenza, evangelizzare il mondo, ma non perché cerchi di controllarli, dominarli, sbattere il pugno, dire la tua, fare giustizia, ma da una condizione di serenità, dire che importa, io continuerò a gioire, e a dimostrare la mia gioia. Ultimo punto, siete pronti? Scegli a cosa dare vera importanza. Scegli a cosa dare vera importanza. L'Apostolo Paolo dice: che importa? Che importa? È importante questo? È importante che io abbia risentimento? È importante, Filippesi, che io vi dica quanto mi senta ferito, ingiuriato da questo atteggiamento di queste persone? È importante che io vi dica quanto sono sbagliate loro, piuttosto che dirvi quanto io invece sto cercando di essere simile a Cristo? Che importa, dice l'Apostolo Paolo, dice: non fate caso a questo, se non ne faccio io caso, non ne fate caso neanche voi. Sta dicendo ai Filippesi: non fate giustizia per me, per queste persone, perché evidentemente i Filippesi sapevano come l'Apostolo Paolo veniva trattato da queste persone. Sta trasmettendo un principio e sta dicendo: non siate giustizieri per me, perché a me non importa. Sapete cosa mi importa? L'Apostolo Paolo lo dice chiaramente. Sapete cosa mi importa? Che Cristo sia glorificato. Non cerco la mia gloria, non cerco di essere io importante, visto, riconosciuto. Io cerco la gloria di Cristo, e Lui sa quello che io faccio, come lo faccio, perché lo faccio, ed è Lui che si prende carico delle offese che subisco. È lo stesso Apostolo Paolo che dice di non farci giustizia tra di noi, ma di lasciare la vendetta a Dio, perché Dio punirà ogni cosa che è ingiusta, Dio punirà ogni cosa che è sbagliata. Dio è un Dio giusto. Dio sta tirandosi indietro da persone che stanno invece accogliendo il male e accogliendo ogni ipocrisia e ogni forma di carnalità nella loro vita. Questo è sufficiente come giustizia. Ma non ricadere anche tu nella giustizia di Dio. Assomiglia a Cristo, perdona sempre, lascia correre, non trattenere amarezze, non dare importanza a ciò che non ha importanza, perché sai che cosa è più importante? La gloria di Cristo nella tua vita, che la tua vita possa brillare e splendere della sua gioia in ogni tempo. Amen. Vogliamo alzarci in piedi. Vogliamo chiudere i nostri occhi e darci qualche secondo per riflettere. Riflettiamo su quanto abbiamo ascoltato. Io sono sicuro che qualcuno ha riconosciuto nel proprio cuore amarezze o risentimenti. Ti è venuto in mente qualche nome, qualche faccia, qualche episodio. E la verità è che Dio è qui per darti vittoria e libertà da ogni offesa, e renderti, se possibile, inoffendibile. Capace di incassare colpi. Capace di incassare ingiustizie. Ma con una libertà e una gioia. E una capacità di rimanere al di sopra dei sentimenti e della carnalità che tutto ciò innesca. Perdona. Perdona ora. Lascia andar via l'ira, la rabbia. Io ti prego, Padre, in questo momento, che la tua parola possa diventare efficace nelle nostre vite. Facci crescere da quei bambini suscettibili . Facci maturare ad essere alla statura dell'Apostolo Paolo. Dacci la capacità di gioire a un livello superiore, di gioire nelle catene, di gioire nonostante le offese. E di vivere il progetto di vita che hai per le nostre vite. Dovunque il diavolo sta tenendo prigionieri miei fratelli o mie sorelle, da quello che è il destino che tu hai riservato loro, io prego libertà in questo momento. Io prego guarigione. E tu sai, Padre, le ferite, tu conosci quanto fanno male. Tu sei stato ferito, schernito, abbandonato, rigettato, ingiuriato. Tu conosci ciascuno di noi nelle nostre ferite. E tu ci ami. E ci vuoi liberi. Liberi di vivere una vita gioiosa. Io prego gioia per la nostra Chiesa, che la nostra Chiesa possa essere caratterizzata da un'esuberante gioia costante che deriva dallo Spirito Santo, perché il frutto del tuo Spirito è anche gioia. E che il diavolo non possa avere posto nella nostra comunità e nelle nostre relazioni. Padre, che ogni mormorio di cui tutti noi, in una misura, in un'altra, in un tempo, in un altro, siamo stati protagonisti, ogni critica rivolta a un fratello, all'altro fratello, ogni amarezza sfogata, possa sciogliersi ora in una condizione di amore, di perdono e di grazia che ci riporta ad essere uniti, non perché siamo perfetti, ma perché tu ci dai grazia e ci insegni a dare grazia agli altri. Che la tua grazia possa dominare nella nostra Chiesa, nel nome di Cristo Gesù. Se sei d'accordo con me, urla un amen. Amen, alleluia. Adoriamo il Signore. Stiamo ancora alla sua presenza.